Ad alta voce, Tommaso Ragno legge I 10 giorni che sconvolsero il mondo, di John Reed, traduzione di Barbara Gambaccini. Una sera, attraversai il fiume per recarmi al Circo Moderno, dove si teneva uno dei numerosi comizi popolari che ogni notte si riunivano in vari luoghi della città. L'anfiteatro, spoglio e cupo, era debolmente illuminato da 5 fioche lampade appese a un esile filo e ospitava, stipati su luride scale fin sotto il tetto, una moltitudine di soldati, marinai, operai, donne, tutti concentrati nell'ascolto, quasi da quel discorso dipendesse la loro stessa sopravvivenza. A parlare, un soldato della 548esima divisione. «Compagni!» gridava. L'angoscia malcelata dai suoi gesti convulsi e dall'espressione severa del volto. Coloro al governo richiedono a noi un sacrificio dopo l'altro, lasciando indisturbati quelli che tutto possiedono. Siamo in guerra con la Germania. Invitiamo forse i generali tedeschi a servire il nostro Stato Maggiore? Allo stesso modo combattiamo contro i capitalisti. Perché dovremmo permettere loro di governarci? I nostri soldati chiedono: diteci per chi e per che cosa dobbiamo lottare. Per Costantinopoli o per una Russia libera? Per la democrazia o per i ladri capitalisti? Se ci date conferma che stiamo difendendo la rivoluzione, non avremo bisogno di minacce per continuare la nostra battaglia, perché laddove la terra appartiene ai contadini, le fabbriche agli operai e il potere ai soviet, c'è qualcosa da difendere e per cui lottare. Nelle caserme, nelle fabbriche, agli angoli di ogni strada, i soldati, divenuti instancabili predicatori, reclamavano la fine della guerra, sostenendo che se il governo non avesse tentato in ogni modo di ripristinare la pace, l'esercito, abbandonate le trincee, avrebbe disertato. Così si espresse un portavoce dell'ottava armata. Siamo ormai indeboliti. Ogni compagnia dispone di pochissimi uomini. Ci occorrono cibo, scarpe e rinforzi, o ben presto non ci sarà più nessuno a difendere le trincee. Pace o rifornimenti? Se il governo non è in grado di ottenere la prima, che si adoperi per mantenere l'esercito. Il 29 ottobre mi recai nella sala di marmo bianco e rosso del Palazzo Mariinsky, dove era riunito il Consiglio della Repubblica per ascoltare la dichiarazione di Tereshenko in merito alla politica estera. Tutto il paese, esausto e bramoso di pace, attendeva con indicibile ansia quel discorso. Un giovane uomo, impeccabilmente vestito, dal volto gradevole e gli zigomi ben pronunciati, leggeva con voce mansueta un discorso scrupolosamente redatto e prudentemente privo di alcun significato. Il nulla, se si escludono i consueti giri di parole sulla disfatta del militarismo tedesco, possibile grazie all'aiuto degli alleati, sull'interesse nazionale della Russia, sull'imbarazzo suscitato dal nakaz di Skobeliev. Il tutto terminava con il ritornello: la Russia è una superpotenza e tale rimarrà, qualsiasi cosa accada, il nostro compito è di difenderla, dimostrare al mondo che noi siamo i paladini di un grande ideale e i figli di una grande nazione. Nessuno parve soddisfatto, non i reazionari che esigevano una spietata politica imperialista, né i partiti democratici che pretendevano l'impegno del governo a sottoscrivere la pace. Scrissi il seguente editoriale nel Rabocci i Soldat, organo del Soviet bolscevico di Pietrogrado. La risposta del governo alle trincee. Il più taciturno dei nostri ministri, il signor Tereshenko, ha ribadito alle truppe quanto segue. Primo, siamo strettamente in contatto con i nostri alleati, non con i popoli, bensì con i governi. Secondo, non c'è alcun modo per la democrazia di discutere la possibilità o meno di una campagna invernale. Questo sarà deciso esclusivamente dai governi dei nostri alleati. Terzo, l'offensiva del 1° luglio è stata ottima. Chiaramente non vengono menzionate le conseguenze. Quarto, Non è vero che agli alleati non stiano a cuore i nostri interessi. Il ministero possiede dichiarazioni molto importanti. Dichiarazioni. In merito a cosa? E cosa si dice del comportamento della flotta britannica? O dei colloqui tra il re inglese e il generale controrivoluzionario Gurko in esilio? Il ministro non ha menzionato nulla di tutto ciò. Quinto, il nakaz di Shkobeliev si è rivelato una pessima iniziativa, non è piaciuto agli alleati né ai diplomatici russi. Alla conferenza degli alleati dobbiamo esprimere una voce unanime e questo è tutto. Cosa emerge da tutto ciò? Non ci resta che avere fiducia nei nostri alleati e in Tereshenko. L'armistizio sarà firmato allorché gli alleati lo permetteranno. Questa la risposta del governo alla richiesta di pace inviata dalle truppe. Sullo sfondo di questo scenario politico si stava inoltre cominciando a delineare una nuova corrente, i cosacchi. Il giornale di Gorky, Novaya Zhizn, richiamò l'attenzione sulle attività di questi ultimi. All'inizio della rivoluzione i cosacchi si rifiutarono di schierarsi contro il popolo e allorché Kornilov si apprestò a marciare su Pietrogrado, scelsero di non appoggiarlo. Col passare del tempo, però, vi era stato un graduale passaggio dalla passiva accettazione della rivoluzione a una ferma opposizione ad essa. La vecchia Russia andava sempre più sgretolandosi. In Ucraina, in Finlandia, in Polonia e perfino nella Russia bianca i movimenti nazionalisti guadagnavano terreno divenendo sempre più arditi. Controllati per lo più dalle classi possidenti, i governi locali, reclamata la propria autonomia, si rifiutarono di obbedire agli ordini di Pietrogrado. Giorno dopo giorno, oratori bolscevichi si aggiravano tra fabbriche e caserme denunciando con fervore questo governo di guerra civile. Una domenica, saliti su un tram sbilanciato che attraverso infinite pozze di fango costeggiava faticosamente le imponenti facciate di fabbriche e chiese, ci recammo a un comizio presso le industrie statali di munizioni Obukovsky, dislocate fuori città in direzione di Schlüsselburg. L'incontro ebbe luogo dentro le mura di mattoni di un enorme edificio ancora da ultimare. Coloro intervenuti, circa 10.000 tra uomini e donne, tutti vestiti di nero, arrampicati sui mucchi di legna e di mattoni o sospesi su travi indistinte, si appressavano intorno a un palco adornato da un drappo scarlatto. A tratti un raggio di sole sfuggito alla pesante coltre di nubi filtrava dai pertugi delle finestre irrorando di una luce sanguigna quei fiduciosi volti a noi rivolti. Lunacharsky, un giovane snello che pareva uno studente e mostrava la sensibilità dell'artista, stava spiegando perché il potere dovesse essere conquistato dai soviet. Nessun altro avrebbe potuto salvaguardare la rivoluzione davanti ai suoi nemici, i quali si apprestavano a portare il paese e l'esercito alla rovina, creando l'opportunità di nuovi Kornilov. Un soldato scarno, proveniente dal fronte rumeno, gridò con un tono drammatico e fiero al tempo stesso: «Compagni, al fronte noi moriamo di fame e di freddo e questo accade senza una ragione. Prego i compagni americani di comunicare al loro paese che i russi, finché avranno vita, non desisteranno dalla loro rivoluzione. Difenderemo la fortezza con tutte le energie fino al giorno in cui tutti i popoli, levatisi all'unisono, verranno in nostro aiuto. Dite agli operai americani di alzarsi e combattere per la rivoluzione sociale». Dopo di lui parlò lento ma implacabile, Petrovski. È giunto il tempo dell'azione. Basta con le parole. L'economia russa versa in un pessimo stato. Occorre fronteggiare la crisi. I nostri avversari tentano di sedarci con la fame e il freddo. Stanno cercando di provocarci, ma scopriranno che se solo osano mettere le mani sulle nostre organizzazioni, li scacceremo come feccia dalla faccia della terra. La stampa bolscevica riprese improvvisamente vigore. I già noti organi del partito, La Voce degli Operai e Il Soldato, furono affiancati da due nuovi giornali, Deberenskaya Biednota, I Contadini Poveri, con una diffusione di 500.000 di copie, e L'Operaio e Il Soldato, Rabocci i Soldat. Quest'ultimo, nel suo primo numero uscito il 17 ottobre, sintetizzò il programma bolscevico. Prolungare la campagna bellica comporterebbe senza ombra di dubbio l'annientamento dell'esercito e del paese. La salvezza di Pietrogrado è a rischio. I controrivoluzionari godono del malessere del popolo. I contadini, pervasi dallo sgomento, sono ormai in aperta rivolta e i grandi latifondisti, in accordo con il governo, reagiscono massacrandoli con spedizioni punitive. Le fabbriche e le miniere stanno chiudendo e gli operai rischiano di morire per inedia. La borghesia e i generali vogliono ristabilire nell'esercito, attraverso provvedimenti implacabili, una ferrea disciplina. Supportati dalla borghesia, i partigiani di Kornilov si stanno pubblicamente preparando per impedire la seduta dell'assemblea costituente. Il governo Kerensky è contro il popolo e sembra intenzionato a distruggere il paese. Il nostro giornale si propone di rappresentare la voce di tutto il popolo, dei contadini, del proletario e dei soldati. Per salvare il popolo occorre portare a termine la rivoluzione e trasferire il potere ai soviet. Il programma del Rabocci i Soldat evoca quanto segue. Primo, tutto il potere ai soviet, nella capitale come nelle province. Secondo, immediata tregua su tutti i fronti e una pace leale tra i popoli. Terzo, terra ai contadini, senza alcuna indennità per i proprietari. Quarto, controllo operaio su tutta la produzione industriale. Quinto, assemblea costituente eletta con la massima onestà. L'istituto Smolny, quartiere generale dello JIC e dei soviet di Pietrogrado, si erge ad alcune miglia dal centro, nella periferia della città, sulla riva della Neva. Lo raggiunsi per mezzo di un tram traboccante di passeggeri che avanzava serpeggiando faticosamente lungo le strade fangose e mal selciate. Al fianco dell'istituto, la cui facciata stile caserma, lunga 200 metri, alta 3 piani, reca scolpito nella pietra al di sopra del portone d'ingresso l'enorme e superbo stemma imperiale, si levano le splendide cupole color blu fumo, contornate in oro, del monastero Smolny. Nel celebre collegio, riservato sotto il vecchio regime alle figlie dell'aristocrazia russa e patrocinato dalla stessa zarina, in seguito alla rivoluzione si erano installate le organizzazioni dei soldati e degli operai. L'edificio aveva più di un centinaio di vaste camere bianche e nude, sulle cui porte alcune placche smaltate recavano ancora diciture del tipo quarta classe, sala professori. Accanto ad esse erano state frettolosamente tracciate altre scritte a testimonianza della nuova attività che si svolgeva all'interno. Comitato Centrale del Soviet di Pietrogrado, JIC, Commissione Affari Esteri, Unione dei Soldati Socialisti, Comitati di Fabbrica, Comitato Centrale dell'Esercito. Altre stanze, occupate dagli uffici centrali, servivano per le riunioni dei partiti politici. Tra i lunghi corridoi, dal cui soffitto a volta pendevano rade lampade elettriche, Si aggirava un'indaffarata folla di operai e soldati, molti dei quali camminavano piegati sotto il peso di enormi involucri di giornali, proclami e indefinita propaganda stampata. Il pesante risuonare delle loro scarpe sul pavimento rassembrava un tuono ininterrotto. Ovunque comparivano le scritte «Compagni, nell'interesse della vostra stessa salute, rispettate le regole della pulizia». Lunghi tavoli, adibiti alla vendita di opuscoli e pubblicazioni politiche, erano dislocati in cima alle scale sui pianerottoli. Al piano inferiore, l'antico refettorio, dal soffitto basso, era mutato in una vera e propria sala-ristorante. Pagati 2 rubli per il pasto, mi accodai a un migliaio di persone in attesa di prendere posto su uno dei lunghi tavoli, dove una ventina tra uomini e donne servivano zuppa di cavolo, prelevandola da enormi calderoni e accompagnandola con pezzi di carne, montagne di cascia e fette di pane nero. Per 5 copechi si riceveva una tazza di stagno colma di tè. In un paniere si potevano trovare cucchiai di legno unti. Ai tavoli, affamati proletari trangugiavano il loro pasto, chiacchierando tra loro e scambiandosi a voce alta attraverso la sala frasi scherzose. Al primo piano un ulteriore buffet, apparentemente riservato allo chic ma esteso un po' a tutti, offriva tartine generosamente imborrate e bicchieri di tè a volontà. Nell'ala sud, al secondo piano, l'antico salone da ballo dell'istituto, un locale alto con le pareti bianche e 2 file di imponenti colonne al centro, illuminata da centinaia di candelabri elettrici, era mutato in una grande sala riunioni. A un'estremità una pedana affiancata da 2 alte lampade a più braccia e, dietro, una cornice in oro che un tempo contorniava il ritratto dello zar. In questo ambiente consono le granduchesse nei giorni di festa, bivaccavano le alte cariche militari ed ecclesiastiche. Nell'ufficio di fronte, il comitato addetto al controllo delle credenziali per il congresso dei Soviet. Osservai i delegati sopraggiungere numerosi, energici soldati barbuti, operai in blusa nera, qualche contadino con i capelli lunghi. L'incaricata dello Jedinstvo di Plekhanov, fazione interna al partito operaio socialdemocratico, li accoglieva altezzosa. «Questa marmaglia non ha a che vedere con i delegati al primo congresso», diceva. «Guardate che aria grossolana e ignorante». In effetti, talmente profondo era stato lo scossone subito dal paese che gli strati, un tempo arroccati nei bassi fondi, erano emersi alla superficie. Il comitato di verifica, nominato dall'antico Zhik, seguitava a respingere tutti i delegati che gli comparivano innanzi, contestando la legalità del loro mandato. Un membro del comitato bolscevico reagiva sorridendo alle proteste generali. «Non inquietatevi. Quando arriverà il momento, otterrete il posto che vi compete». Sul giornale Raboci e i Soldat uscì il seguente trafiletto. «È bene che i delegati al congresso dei Soviet diffidino di alcuni membri dei comitati organizzativi, i quali tentano di boicottare il congresso asserendo che esso non avrà mai luogo e inducendo coloro intervenuti a lasciare Pietrogrado. Non prestate attenzione a queste bugie. Il nostro momento arriverà presto».